tante è la letteratura working class, nodi, connessioni e prospettive. Se volete accomodarvi, grazie. C'è un po' il casino. Vabbè, allora, questo panel riguarda la critica letteraria ed è composto da me, che insegno all'Università di Venezia, di Padova, Mimmo Cangiano, che insegna all'Università di Venezia, Marco Gatto, Università della Calabria, Morena Marsilio, che è docente del Liceo Galilei di Padova e ricercatrice indipendente Unipd, e Annalisa Romani, Università Aix de Marseille e traduttrice soprattutto. È un onore, vero, è una sfida essere qui, anche perché l'università che in parte rappresentiamo è colpevolmente lontana, anni luce dalla realtà materiale e sociale, mentre è connivente, consenziente nei processi di aziendalizzazione della cultura. L'alfabeto concettuale, le pratiche accademiche e purtroppo anche quelle della scuola non si distinguono più da quelle del marketing, con una gravissima violazione della libertà dell'insegnamento che è sancita dalla nostra Costituzione nell'articolo 33. È importantissimo per tutti quelli che lavorano nella cultura a ogni livello e che insegnano ricostruire da zero un altro alfabeto critico di opposizione. E questo festival è quello che la lotta dei lavoratori GKN rappresenta, è un punto di riferimento necessario e imprescindibile. Occorre anche nel campo della cultura e dell'università rompere l'assedio e tentare il futuro. È uno degli slogan scelti dal collettivo di fabbrica GKN per ricostruire e inventare il futuro. Inventare, cioè, una cultura che torni di nuovo a disporre di alcune parole chiave che sono state annullate nel presente, ormai da 30 anni, quelle che possono semplicemente nominare il conflitto tra capitale e lavoro e le contrapposizioni di classe. È fondamentale poter nominare la contrapposizione di classe, la guerra di classe, che continua quanto più terribile, quanto meno nominata, per ricostruire una università, un sapere critico, una scuola critica, non subalterni al capitale. Questo lo sento come dovere di docente e lo sono in estrema minoranza quando lavoro nella mia università, ma in questa minoranza non sono del tutto solo. Chi fa critica letteraria, e vengo quindi ai nostri specifici compiti e lavori, dovrebbe essere non un intrattenitore o un imbonitore o un venditore di cultura, come cultura merce, ma un interprete, una voce dialogica che legge con strumenti critici le opere in situazioni pubbliche e didattiche e cerca di ricavarne quello che Walter Benjamin chiamava il contenuto di verità. Il nostro compito è ricavare dalle opere del presente e del passato il loro contenuto di verità e di contraddizione. Adesso faremo due giri di tavolo, cercando di rispondere alle questioni che un giro di tavolo, scusate, e dopo ci sarà un elefante nella stanza dei precari dell'università. Un giro di tavolo cercando di rispondere alle questioni con cui Alberto Prunetti ci ha chiamato a partecipare a questo panel, cioè cercare di individuare i problemi, le prospettive del lavoro critico letterario oggi davanti a degli immaginari padronali e subalterni. Si può fare riferimento certo al saggio di Alberto, Non è un pranzo di gala, uscito nel 22, secondo cui il lavoro non è semplicemente un tema letterario tra gli altri, è un rapporto, è una condizione, è un conflitto permanente che permea l'intera realtà materiale e l'intero immaginario. Insegnare e tradurre, del resto, è un lavoro. È un lavoro che implica anche un posizionamento continuo nel campo della produzione culturale. La letteratura, la poesia, la traduzione sono certo margini del campo culturale che è occupato da altre agenzie formative e mediatiche molto più potenti, ma dentro questo campo marginale le persone con background working class sono ulteriormente marginali e marginalizzate. Io ho conosciuto grazie a questo festival, e lo dico colpevolmente perché dovevo conoscerlo come docente di letteratura, quell'opera meravigliosa che è Alla linea di José Pontus, che porta la grande letteratura borghese, quella più alta, a fare i conti con le viscere nei mattatoi bretoni. Un testo concepito in frammenti che, come è stato detto prima, non prende a calci Proust, ma lo mette a contatto, a sporcarsi con il lavoro interinale e le condizioni di sfruttamento odierne. Restano tuttavia delle questioni aperte che adesso cercherò di sintetizzare. Cioè, noi abbiamo bisogno per il futuro culturale, anche per il futuro letterario working class, di attingere a una tradizione precedente. E il Novecento è ricco di tradizioni, sia working class che non working class, che problematizzano le contraddizioni lavorative. Citerò molto brevemente due coppie di scrittori. E in queste coppie c'è un dialogo e un conflitto tra working class che scrive negli anni 70 e non working class che scrive sul lavoro. Dialogo e conflitto. Le due coppie sono rispettivamente Tommaso Di Ciaula e Primo Levi, da un lato, dall'altro Luigi Di Ruscio e Paolo Volponi. Capite che se qualcuno ha un minimo di esperienza letteraria, sono in gioco due scrittori working class, Di Ruscio e Di Ciaula, e due scrittori non working class, Paolo Volponi e Primo Levi, che sono nel canone letterario. Allora, molto brevemente, Di Ruscio, forse qualcuno non lo conosce, è uno scrittore working class del Novecento che vive fino ai primi del 2000, è stato dominato un Jacopone da Todi operaio, va via dalle Marche, da Fermo, molto giovane, e lavora tutta la vita a Oslo, in Norvegia, in una fabbrica di chiodi. Scrive testi potenti, sia sul piano poetico che narrativo. Scrive Il Palmiro, 1986, Cristi polverizzati, 2009, che sono delle prose memoriali, e poi molte poesie. È un poeta e uno scrittore che pensa in italiano e parla in norvegese, perché negli anni 50 si trova dentro una fabbrica in Norvegia, mette su famiglia lì, e quindi la sua Neve nera di Oslo la può nominare o scrivere ossessivamente sui tasti della sua Olivetti di notte soltanto in interiore omini, dentro di lui. È anche la lingua originaria che gli è espropriata, è un migrante, è un italiano migrante in Norvegia. Le sue scritture sono interessanti perché sono sberleffo e ribellione linguistica, corporalità, ricche di gioiosi paradossi. Se non l'avete letto, leggetelo. È una sorta di radiografia della nostra storia, perché lui pensa l'Italia da fuori dell'Italia, pensa la nostra lingua da fuori della nostra lingua, ed è un autodidatta. Ha fatto le scuole elementari e legge profondamente Giordano Bruno, Marx, Campanella e Lenin, Gramsci e Montale, Hegel e Croce. E tutti questi li nomina e li trita dentro le sue scritture, perché li mette a repentaglio e davanti alle condizioni lavorative e il suo tragitto. Ecco, questo scrittore, Luigi Di Ruscio, entra in contatto con Volponi e Volponi gli dà una mano per pubblicare Il Palmiro nel 1986. Continua a scrivere una valanga di lettere da Oslo a tutti i critici letterari italiani perché lo cerchino di supportare. Lui però non si definisce scrittore operaio. Non accetta questa etichetta. La sente stretta. Si definisce scrittore e scrive, ho letto da qualche parte che gli intellettuali si dividono in talpe e in lepri. La talpa scava il suo buco, cerca le ultime conseguenze. Io mi sento una talpa. La lepre invece svolazza da tutte le parti. La lepre è D'Annunzio o Petrarca. La talpa perfetta è Dante. Per le lepri ho sempre avuto schifo. Capite che questo posizionarsi così nel canone più alto, nomina D'Annunzio, nomina Dante, prende posizione e dice mi fa schifo questo e mi piace quello, vuol dire essere scrittori, non scrittori solo operai, non sono nel ghetto, che l'editoria a volte ha posto la linea, per esempio Feltrinelli negli anni 70 con una certa linea editoriale, i franchi narratori, che apriva ma anche chiudeva, apriva uno spazio ma anche ghettizzava, li chiamavano i cannibali o in qualche modo venivano selvaggi, venivano nominati, ecco, letteratura selvaggia più che cannibale. Cannibale è stata un'altra wave, un'altra onda successiva. Ecco, lui Di Ruscio evade da questo ghetto, vuole essere scrittore a tutto tondo e sfida il campo culturale. Volponi lo accoglie, come accoglie anche Di Ciaula, perché scrive la prefazione al suo fantastico Tuta Blu, un testo importantissimo per quanto riguarda gli esordi della letteratura working class in questo paese. Quindi Volponi si posiziona, pur essendo uno scrittore borghese, è lo scrittore che ha scritto Le mosche del capitale, un testo importantissimo per ricostruire la forza destruente del capitale contro la classe operaia. In questo testo arrivano anche a un operaio, agli operai, le lettere di licenziamento, si narra anche dell'occupazione, dei giorni di occupazione alla Fiat nel 1980 e i licenziamenti del 79 con la scusa di collaborazione col terrorismo, scambiando la lotta dura operaia col terrorismo, e con questa equazione ci hanno fregato. Volponi narra questa equazione e la narra in forme splendide nelle Mosche del Capitale. Passo rapidissimamente al secondo duetto, alla seconda coppia di scrittori, uno working class e l'altro no. Di Ciaula, Tommaso Di Ciaula, tornitore pugliese, che scrive Tuta Blu e poi scrive poesie, e poi Tuta Blu diventa anche un film, un classico potremmo dire della letteratura working class. L'altro scrittore è Primo Levi, lo scrittore del Lager, lo scrittore anche però di un romanzo o di lavoro che si chiama La chiave a stella, che esce nel 1978. Quando esce La chiave a stella, La chiave a stella celebra il lavoro ben fatto e un lavoratore che è un lavoratore autonomo, fuori dalla fabbrica, che lavora alto nel cielo, che lavora dentro i tralicci più alti ed è felice del suo lavoro e pensa che la massima di felicità sia coincida con lavorare bene. Capite che naturalmente dentro questo testo c'è una verità e una bugia. C'è la verità che il lavoro ci appartiene, Homo Faber sta dentro di noi, è tipico della nostra specie lavorare, ma anche si espunge lo sfruttamento. Non c'è sfruttamento in questo testo e siamo negli anni 70, siamo negli anni fine 70, anni della sconfitta della classe operaia, non gli anni dei consigli di fabbrica. E allora Tommaso Di Ciaula scrive al quotidiano Lotta Continua una lettera coraggiosa, schietta, se volete anche un po' sfacciata, che dice appunto a Primo Levi: perché hai fatto, ti sei appropriato di questo operaio? Dice: noi operai metalmeccanici non siamo per nulla soddisfatti del nostro lavoro. Andreotti, Pirelli lo saranno. Sentite che fiorellini escono dal romanzo. Amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione alla felicità sulla terra. Il lavoro costituisce il tipo di libertà più accessibile e più goduto soggettivamente. Quindi Di Ciaula pone in faccia a Primo Levi una questione importantissima. In questa lettera irruente e schietta pone il problema della presa di parola e del punto di vista delle classi subalterne. Eppure Di Ciaula, nelle due grandi biografie inglesi tradotte in italiano su Primo Levi, è escluso. Si nomina un operaio, ha scritto una lettera. Non si dà nome all'operaio che ha osato sfidare il grande scrittore, che pure Levi conosceva lo sfruttamento più duro. Sapeva che nella Buna, nella Eigefarben di Auschwitz, oltre a uccidere, si faceva lavorare il lavoro schiavile degli internati. La Buna era un'azienda capitalistica che guadagnava moltissimo dal lavoro degli ultimi e dei deportati. Quindi esisteva perfino nella fabbrica, esisteva anche nel lager e serviva per annientare ma anche per sfruttare. E Levi lo scrive e traduce la Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, appunto, come espressione beffarda dello sfruttamento più terribile. Quindi lui sapeva che cos'è la classe. La classe quando diventa schiava, però ha celebrato il lavoro libero. E questa contraddizione è stato capace di Ciaula a metterla in gioco. Quindi dialogo e conflitto tra cultura e cultura operaia, non ghettizzazione, queste sono le vie, secondo me, per attingere al Novecento e fare anche a scuola e anche all'università letteratura sul lavoro conflittuale. Ce n'è tanto e tanto bisogno. Grazie. Allora, passo la parola a Mimmo Cangiano dell'Università di Venezia. Grazie mille e buongiorno a tutti, è davvero un grande onore per me essere qua, sono un po' emozionato. E noi siamo dei dinosauri fondamentalmente, cioè noi non c'entra niente l'età, cioè noi all'università, in una condizione ovviamente di privilegio, ma noi le persone che vedete qua, scuola, università, siamo assolutamente dei dinosauri, cioè trattati fondamentalmente come residui di un passato che si vuole dimenticare, come il ritorno del rimosso, come perculati spesso. Io ai convegni sono il compagno Cangiano, ma non lo dicono con affetto, perché insistiamo ancora a parlare di classe, di struttura, sovrastruttura, ribadiamo la necessità di una critica marxista riguardo alla letteratura. E questo non piace all'università, che è un'istituzione che probabilmente per un trentennio nella seconda metà del Novecento, fatti i suoi calcoli in modo strumentale, aveva dato spazio alla critica marxista perché la società stava andando in un certo modo, ma che appena il movimento operaio è stato sconfitto e siamo stati ricacciati indietro, è tornata al suo vile borghese e ha ripreso a fare le solite vecchie analisi di sempre, mettendo il marxismo in quell'angolino dove deve stare per loro. E io però volevo provare a fare un discorso in 10 minuti su che cos'è la critica marxista, perché ci crediamo ancora e qual è un possibile legame fra critica marxista e letteratura working class. E però dobbiamo cominciare col dire una cosa che è ovvia a chi fa letteratura working class, cioè che le forme che uno si trova davanti come scrittore working class sono le forme della letteratura borghese. Però la soluzione è meno ovvia, cioè quelle forme dobbiamo appropriarcene o dobbiamo distruggerne. Se prendiamo quello che hanno fatto gli intellettuali e gli artisti borghesi fra il 5 e il 700, cioè quando stavano conquistando l'egemonia anche culturale, diciamo che hanno fatto entrambe le cose. Cioè da un lato hanno creato nuove forme letterarie che sono poi pian piano diventate il loro marchio di fabbrica, il romanzo moderno, il dramma serio, eccetera, eccetera. E dall'altro hanno modificato dall'interno le forme letterarie dell'aristocrazia, l'epica, la tragedia, e ne hanno fatto qualcosa di diverso. Lo hanno fatto parodizzandole, ma anche negoziando con esse, inserendovi temi e forme nuove. Hanno abbassato a livello del quotidiano le storie narrate, hanno magnificato un modo di vivere non più fatto di eroismo e gloria, ma di industriosità e commercio. E noi come critici marxisti però crediamo che c'è una cosa che la letteratura borghese non ha mai potuto mettere nel quadro, se non in modo oscuro, ed è stata cioè la dipendenza dei pensieri e delle azioni dei loro personaggi dalle strutture economiche in cui agiscono. La coscienza vale a dire che a livello del narrato, ciò che avviene a livello del narrato è in una complessa relazione col modo in cui l'intera società funziona a livello economico. Cioè il soggetto letterario della borghesia può avere coscienza di sé, del dipendere magari da strutture politiche, da strutture psicologiche, di pensiero, da un consenso sociale, ma non di smettere di credere che il suo pensiero è comunque sempre autonomo in qualche modo. Il soggetto della letteratura borghese si pensa come soggetto, pensa che c'è un nocciolo di autonomia in sé, nella propria individualità. Forse una cosa che la critica marxista ha sempre fatto e che credo faccia anche la letteratura working class è insegnare che come soggetti, e non solo come soggetti working class, siamo tutti in realtà oggetto. sballottati da forze che non dipendono da noi, che sono più grandi di noi e che possiamo modificare non a livello individuale, ma solo unendoci in un noi. Immaginarsi come oggetto, come cosa, può sembrare una cosa brutta, ma in realtà ci insegna due cose fondamentali del modo in cui viviamo. In primo luogo, che finché dobbiamo vendere la nostra forza lavoro per campare, siamo effettivamente oggetti. E in secondo luogo, che possiamo essere liberi solo modificando le strutture del lavoro. Io volevo parlarvi di una scena di Illusioni perdute di Balzac. Adesso diciamo, no, l'accademico che mo ci viene a parlare di Balzac. Però è una scena che secondo me dice tantissimo di letteratura e lavoro. Non riguarda il protagonista, Lucien, che è andato a Parigi a cercare fortuna come letterato, ma riguarda l'amico di Lucien che è rimasto al paesello a lavorare, che si chiamava David. E David è un tipografo. E a un certo punto fa i libri, lavora la carta. E a un certo punto fa un discorso su come funziona l'industria tipografica e su come sia legata alle innovazioni tecnologici concernenti appunto la produzione della carta. Non c'è una descrizione migliore di un certo modo di operare del capitalismo in tutta la letteratura, perché David dice: noi dobbiamo abbassare continuamente i prezzi della carta, comprare carta a livello più basso, pagare meno gli operai, in modo che possiamo tenere bassi i prezzi dei nostri libri e così allargarci e competere in un mercato che concorrenziale, che accoglie fasce sempre più larghe di consumatori. La cosa interessante è che questo abbassamento del livello della carta di cui David parla, e non fa solo l'esempio della carta, parla del fatto che piano piano, dice, smetteremo di usare abiti costosi, le nostre case si faranno più piccole, è corrispettivo a quello che sta succedendo all'amico Lucien a Parigi. L'amico Lucien è andato a Parigi con l'idea di essere un grande poeta, vuole vendere un libro di poesie in cui crede molto, ma questo libro di poesie non se lo caga nessuno. La poesia è una merce elitaria, non la vuole nessuno. E Lucien però all'inizio soffre un po' di questa cosa, ma poi dice: va bene, allora mi metto a scrivere romanzi. Scrivo un romanzo che si chiama L'arciere di Carlo X. E l'editore gli dice: sì, il romanzo, d'accordo, però perché non ti metti a scrivere degli articoletti sulle gazzette? La gente è affamata di opinioni, vuole cose veloci, non vuole perdere tempo a leggere romanzi, vuole opinioni, lanci, contraddizioni, polemiche. Ecco, quello che Balzac ci sta spiegando è che quello che David sta raccontando rispetto al lavoro e alla carta sta succedendo anche a livello del mondo della cultura. Cioè il mercato ha invaso il mondo della cultura. Come i prodotti della carta si abbassano di valore, di prezzo, perché la gente vuole spendere di meno per avere cose, così si abbassano anche i prodotti culturali, dalla poesia al romanzo, agli articoletti del giornale e quant'altro. Quello che Balzac ci sta raccontando è che mondo materiale e mondo culturale, cioè quel mondo che la borghesia sogna autonomo, indipendente, libero, fatto dei grandi valori dell'umanità, in realtà è strettamente collegato al mondo materiale e a ciò che succede sul piano del mercato. Cioè il mondo economico materiale e quello culturale presentano caratteristiche comuni. Ecco, se l'intervento, questo è l'intervento della critica marxista sulla letteratura borghese, questo è quello che la critica marxista fa: rivelare che dietro l'autonomia, l'indipendenza, le grandi parole con la lettera maiuscola, c'è il mercato, i soldi, la materia, la lotta di classe. Però cosa può darci di più la letteratura working class? Fin qui ha la critica marxista. Beh, la prima risposta sarebbe ovvia, no? Ci dà un punto di vista diverso. Però è una risposta che a me sembra limitata. Perché è una risposta troppo legata all'idea di working class semplicemente come identità. La classe lavoratrice è ovviamente un'identità e come tale è portatrice di un proprio punto di vista particolare sul mondo. Però, come diceva Marx, essa è anche un'altra cosa, è la possibilità della fine di questo mondo. Ecco che allora che il concetto che mi viene in mente non è quello di un punto di vista diverso, ma quello di una vera e propria alternativa. Cioè la working class porta il punto di vista del futuro, o almeno a me piace pensarla così. Mi rendo conto che quando parliamo di letteratura working class, mi rivolgo anche ad Alberto che ne ha scritto molto, c'è sempre il rischio prescrittivo, cioè il rischio di dire all'arte cosa dovrebbe fare. Però io non ho certezze, però vi chiedo e mi chiedo, cioè, siamo sicuri che questa paura della prescrizione non sia a sua volta dipendente dal senso comune borghese sul mondo e sulla cultura? Cioè, Alberto in Non è un pranzo di gala alla fine mette un bellissimo decalogo per la letteratura working class. Ecco, questo è un rischio prescrittivo o invece è il senso della manifestazione più profonda di un modo altro, diverso, working class, di intendere la sfera culturale? Oppure Cash Carradine che dice «Sto provando ad alzare le nostre voci per cercare un cambiamento». È retorica, come la bollerebbero gli illuminati liberali e liberal, o è manifestazione di una parte della società per cui cercare un cambiamento è questione di vita o di morte? Domande a cui è difficile dare una risposta, però due cose le voglio dire. Uno, pianificare, mettere regole non è necessariamente qualcosa di sbagliato quando lo intendiamo dal punto di vista economico-politico. E allora forse non è neanche qualcosa di sbagliato quando lo intendiamo da un punto di vista culturale. E due, le ideologie capitaliste non hanno paura di punti di vista diversi. Una delle grandi forze del capitalismo è la capacità di tollerare al suo interno tanti punti di vista diversi, mettendoli sempre a merce, a profitto. Ciò che non possono accettare sono invece gli intenti trasformativi. Lo stesso separare ciò che è letteratura da ciò che non lo è, declassando ad esempio la produzione working class a espressioni non compiutamente letterarie, sottolinea non di un'idea condivisa di cosa sia letteratura, ma del modo in cui la borghesia intende la letteratura. E come un tempo bollava come non letteratura quelle espressioni letterarie che entravano in contatto con questioni politiche e sociali, sono le lotte del proletariato ad aver fatto di queste espressioni letteratura in senso stretto. Così ora storce il naso verso le caratteristiche di alcune produzioni letterarie che, per impostazione, non si ritengono autonome dalle modalità in cui si sviluppa la vita sociale. Si può dire che ne ha paura e che traveste questa paura da sprezzo intellettuale. Certo, bisogna sempre fare attenzione, non dimenticarsi mai che il capitalismo è ancora il principale produttore di soggettività del nostro tempo. E dunque non dimenticarsi mai che anche le espressioni che provengono dalla condizione subalterna possono essere sintomi del modo in cui il capitalismo sta lavorando. Sempre Alberto scrive: mi preoccupa l'autobiografismo di tante scritture contemporanee. E credo di capire cosa intenda e condivido la sua preoccupazione. Il racconto personale della condizione working class è anch'esso a rischio di diventare manifestazione di quella chiusura nell'individuale, nell'io, nella condizione singola, che ha qualcosa a che fare con quella mercificazione del sé che pare il tratto tipico delle nuove modalità lavorative e relazionali. Ha scritto una volta Trevisan: in un'epoca quale la nostra, in cui tutto si trasforma inesorabilmente in merce, non deve stupire che anche per le teorie letterarie e artistiche esista un florido quanto asfittico mercato. Ed è molto balzacchiano. Ecco, volevo concludere citando Works di Trevisan, perché mi sembra uno straordinario modello. Perché là il racconto dell'esperienza personale, Trevisan che ci racconta tutti i suoi lavori, non si fa semplice racconto, guardate, questa è la mia identità. No, si fa un'esperienza tipica, finalizzata a intendere il modo in cui tutta la società capitalistica lavora e come domina l'individuo. Ecco, a un certo punto, e concludo descrivendo la logica culturale postmoderna, Trevisan scrive: tutto appare come una proiezione soggettiva, di parte. E lo fa in un libro che è un racconto soggettivo. Come sfugge dunque a questa logica culturale, a questo rischio di replicare, mediante la narrazione della propria vicenda working class, le logiche dello storytelling individualista che domina il nostro tempo? Lo fa proprio esplicitando il problema, rivelando che c'è una strettissima connessione fra la sua narrazione e il modo in cui il capitalismo agisce, quello che lui chiama il capitalismo degli insaporitori, cito, di giovani mostri addestrati a complicare e manipolare il linguaggio, qualsiasi linguaggio, in modo tale che allo stato attuale scompaia ogni vera, genuina, umana conversazione, ovvero una pratica di relazione che non voglia perciò sempre e necessariamente imporre, cioè vendere, a un altro. Trevisan, cioè, non si chiama fuori, non proclama, no, la mia letteratura è diversa da questo, no, mette in mostra l'orrore del mondo che abita, un mondo in cui tutti ci vendiamo come merce, anche con lo storytelling della cultura, ma pure riconosce in sé, nella sua letteratura, il rischio di replicare gli stilemi di quel mondo, di quello storytelling, cioè di farsi a sua volta merce da vendere, e cita di una segretaria, la segretaria che gli racconta l'azienda. E in questo modo però mette in luce la realtà più vera e brutale del nostro tempo, cioè che le logiche della mercificazione invadono anche gli spazi che la borghesia vorrebbe consacrata e autonomi, quelli della cultura. La letteratura working class così si può fare al tempo stesso sintomo e critica del presente capitalista, rivelando che non ci sono spazi preservati dalla mercificazione. E questo rivelare che non ci sono spazi dalla mercificazione non è un segno di resa, ma il segno della necessità di reagire, di migliorare la nostra condizione di vita attuale. Grazie. Do subito la parola a Marco Gatto, Università della Calabria, anche perché i tempi sono piuttosto stretti. Uso questo, si sente? Okay. Sì. Buongiorno a tutte e tutti, anche per me è un onore essere qui. Forse una delle poche sedi in cui il nostro lavoro trova una piena realizzazione politica, quindi dobbiamo essere anche all'altezza del compito, e non siamo abituati a farlo, perché lo diceva molto bene Emanuele prima, la sede della nostra povera funzione sociale è una sede che è stata martoriata da una vocazione capitalistica che si è impadronita degli istituti di trasmissione del sapere in questo paese, scuola e università. Quindi la nostra è ovviamente una battaglia di resistenza, ma è una battaglia di resistenza che ogni giorno si pone, dovrebbe porsi sempre il problema del compromesso con questo stesso sistema, e quindi il tema del nostro privilegio, che è un tema da mettere ovviamente sul tavolo. Emanuele ha evocato due parole importanti, dialogo e conflitto. Sono le parole chiave di un libro che esce nel 1999, firmato da l'ultimo grande critico marxista di questo paese, Romano Luperini, un intellettuale che ha ancora molto da insegnarci oggi. Ebbene, in quel libro Luperini, che formulava peraltro una proposta ermeneutica, critica, nuova, pensando soprattutto alla scuola, forse non più all'università, soprattutto alla scuola, indicava due patologie della critica letteraria contemporanea, italiana e forse occidentale. La prima patologia è uno specialismo selvaggio, una chiusura cioè negli orti disciplinari, un nuovo elitarismo fatto di lessici, categorie comprensibili solo per pochi. Il microfilologismo tipico degli accademici che, studiando le quartine di un poeta minore del 400, ritengono di aver esaurito il loro compito intellettuale. Dall'altra parte un'altra patologia inversa, che era quella del critico narcisista salottiero televisivo che si esprimeva solo attraverso il giudizio di gusto, che è quello del mi piace, non mi piace, senza argomentare, senza sondare le ragioni profonde della letteratura. Ebbene, dal 99, questo libro è del 1999, cosa è cambiato? È cambiato molto in senso, ahimè, regressivo. Potrei infatti dire questo, e probabilmente sarei nel giusto: oggi la critica letteraria italiana, tanto più quella militante, semplicemente non esiste. Sarebbe però un'opzione tranquillizzante, troppo tranquillizzante, soprattutto per chi cerca di praticarla, questa critica letteraria più o meno militante. A me non piace neanche la formula, ancora più tranquillizzante e secondo me servile rispetto al nostro tempo, di conduzione postuma della critica. Perché io credo che ci sia una condizione storica contingente della critica, del discorso critico oggi, che ci dice una cosa molto ma molto netta, e ovviamente costituisce un regresso rispetto a quando Luperini aveva ben visto in anni in cui si discuteva di crisi della critica letteraria. Oggi non esiste una critica letteraria militante, perché esiste una critica letteraria di destra che affolla i nostri giornali, i nostri quotidiani, ed è la critica che pretende di poter espletare la sua funzione dicendo solo e soltanto io, cioè andando a radicalizzare quel giudizio di gusto che è diventato il contrassegno delle classi dominanti oggi. E allora, il contrassegno delle classi dominanti è questo individualismo che oggi si esprime sulle terze pagine, chiamiamole così, di alcuni quotidiani. Pensate al Foglio, pensate al Foglio, alla loro campagna, no? Per la guerra, Allora, quelle pagine critiche, parlare di letteratura all'interno di quel contesto, significa servire anche le ragioni della privatizzazione del sapere, della privatizzazione della sanità, della privatizzazione del discorso pubblico, della privatizzazione dell'università. Allora noi abbiamo un compito molto importante. Oggi non possiamo dire la critica letteraria non esiste o la critica letteraria militante non esiste, perché esiste come? Solo che è di destra. E quindi abbiamo un compito molto importante. E a mio giudizio dobbiamo guardare al Novecento dei maestri, lo diceva benissimo Mimmo, lo diceva benissimo Emanuele, chiaramente ai maestri della letteratura, ma anche ai maestri del pensiero, e penso ad Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, nei Quaderni del carcere, profila una figura di critico molto ma molto netta, che è quella ovviamente dello specialista filosofo, cioè di colui il quale ovviamente la letteratura la conosce, ma sa che il discorso sulla letteratura deve essere sempre verificato sul terreno bruciante della storia. E Gramsci aggiunge anche una cosa che secondo me può esserci molto utile oggi, che in questo posto e non solo cerchiamo di portare avanti un'idea diversa di mondo. La critica può essere per certi aspetti anche prescrittiva, offrire degli orientamenti, nello stesso tempo però deve essere molto cosciente del rischio di questa prescrizione, ma forse una cosa può farla, è indicare la necessità di costruire una nuova civiltà, non quella di indicare modi di scrittura specifici, di costruire una nuova civiltà, anche per dire una cosa che secondo me oggi è sacrosanta. Se vogliamo fare una battaglia, diciamo così, anticapitalistica anche nel versante della critica letteraria, se c'è un oggetto polemico che l'attuale condizione capitalistica ha fatto ritornare in forme diverse, è l'autonomia estetica, la ricerca della letteratura per la letteratura, la ricerca del brand letterario, la ricerca della riconoscibilità letteraria. Noi dobbiamo sforzarci invece di far nostri alcuni versi di Franco Fortini: fra quelli dei nemici scrivi anche il tuo nome, perché il punto è quale grado di compromissione siamo disposti ad accettare o non vogliamo accettare con il mercato capitalistico dell'editoria, il mercato capitalistico della letteratura. Qual è il nostro grado di compromissione che ci permette talune volte di separarci da tutto il resto e di pensarci nel reame idealistico e neocrociano della letteratura? A me pare questo il punto, una critica dell'autonomia estetica che riesca ancora una volta, nel senso più moderno del termine, a liberarci dalla tentazione di pensarci dentro lo spazio protetto della letteratura. La letteratura concepita ovviamente come arte borghese, lo diceva benissimo Mimmo prima. Dobbiamo forzare invece questo scrigno e dobbiamo farlo predisponendoci all'allestimento di nuove forme di sapere, di nuove forme di concetto che tengano ovviamente assieme, è chiaro, le vie della rappresentazione letteraria, le vie della rappresentazione dell'esperienza quotidiana di vita, come si diceva anche nel panel precedente, ma anche una critica, un'autoverifica serrata a quei contesti che conducono poi queste rappresentazioni a fare i conti, a volte aderendo, con il mercato capitalistico. Questo significa riscrivere anche politicamente il ruolo della letteratura. Ci sarebbe da parlare del canone, ad esempio, i cui riflessi sulla scuola sono ovviamente terribili. Riscrivere il canone dal punto di vista degli oppressi, passare al contropelo la storia, diceva qualcuno, proprio però con una direzione, a mio giudizio oggi, che è il compito politico di una critica letteraria che voglia dirsi anticapitalista: cercare quotidianamente di demistificare l'idea di una separazione del sapere da tutto il resto, perché il sapere, la letteratura, la critica non sono separati dal discorso egemone del capitalismo. Se vogliamo oggi elaborare una critica del capitalismo come soggetto che nutre le forme di vita, allora abbiamo bisogno anche di mettere davanti al tribunale della ragione la letteratura e il nostro posto nella letteratura. Per me questo è il compito di una generazione, è l'onere di una generazione. Allora, buongiorno, saluto tutte e tutti e prendo la parola in questo festival ringraziando per questo invito prezioso, perché è un vero privilegio poter discutere di lavoro, di letteratura in questo posto, in questo luogo presidiato di militanza, di resistenza e avere quindi avuto l'occasione di riflettere su quanto si fa individualmente nel proprio campo di azione. Io sono un insegnante di liceo e una decina di anni fa ho concluso un dottorato sulla letteratura dell'estremo contemporaneo. Allora mi sono occupata in più di un'occasione di rappresentazione letteraria del lavoro, ma devo dire l'etichetta working class in Italia praticamente non esisteva. La usava qualche critico come Claudio Panella, che si è occupato molto anche di narrativa straniera, e quindi devo dire quella era un'etichetta che soprattutto per gli autori stranieri veniva utilizzata. Oggi chiaramente siamo chiamati a riconsiderare questa categoria letteraria, a considerarla anche per le scritture italiane, anche se siamo in un forte deficit rispetto a questo. Attualmente il mio compito di critica militante si svolge su un blog al quale collaboro, è il blog diretto da Romano Luperini, La letteratura e noi, ma è evidente che il mio luogo di elezione è la scuola. E la scuola con l'editoria, con l'università, contribuisce alla definizione del canone. La scuola e l'editoria scolastica sono sempre in ritardo, sono forse in colpevole ritardo. La scuola ha dei problemi evidenti rispetto a questo ritardo. Il primo è la formazione dei docenti. E il secondo è il legame con l'editoria scolastica. L'editoria scolastica è fatta per vendere, è una merce. E chi fa libri per la scuola sa che li piazza se sono libri rassicuranti. Sono libri che devono riproporre contenuti noti e appunto rassicuranti. Quindi rispetto a questo evidentemente c'è un enorme lavoro da fare. A questo si aggiunga che oggi, in un mondo che considera come prioritario la logica dell'utile, far dialogare delle giovani menti in formazione con la letteratura non è per niente facile. La scuola è stata completamente assoggettata alla logica dell'utile. Vanno per la maggiore le discipline STEM, cioè un grande, e uso volutamente questo termine, battage pubblicitario sulle discipline STEM, la science, technology, engineering, mathematics. Sono discipline che le famiglie vogliono, chiedono, desiderano e che anche una parte dei docenti credono che debbano essere trainanti, perché sono spendibili nel mondo del lavoro. I nostri ragazzi poi sono obbligatoriamente tenuti a svolgere le ore di PCTO, un prerequisito senza il quale non vengono ammessi all'esame di Stato, e dall'anno scorso sono obbligati per 3 anni dalla terza 30 ore di orientamento caratterizzate da una evidente educazione all'individualismo e alla competitività. La logica aziendale viene inoculata nei ragazzi e nelle ragazze che abbiamo in classe attraverso percorsi di acquisizione di soft skills, di public speaking, di team working. Di fronte all'erosione delle ore curricolari, al venir meno del riconoscimento sociale delle materie letterarie, cosa può fare un insegnante di lettere che non abbia abdicato al suo ruolo di intellettuale, che continui a credere che il suo è un lavoro culturale e militante. E vi garantisco che già il non aver abdicato a questo ruolo è un miracolo in una scuola che ci vuole tutti burocrati, disuniti, abituati a chinare la testa a compilare registri elettronici. La risposta che personalmente do è quella di realizzare dei percorsi di lettura indipendenti dai manuali in adozione, che demistifichino la retorica imperante sul lavoro e sulle cosiddette professioni del futuro che potete trovare sulla piattaforma ministeriale unica alla quale i nostri ragazzi vengono rimandati per caricare il loro capolavoro. Quindi autori che magari non sono squisitamente working class, ma che diciamo ho conosciuto in questi anni meglio, come Trevisan, Falco, Targhetta, Rea, pur appunto non essendo conformi al prontuario prunettiano, offrono pagine importanti per realizzare una microantologia anticonvenzionale, dove la rappresentazione del lavoro sia oppositiva rispetto a quella offerta dalla retorica imperante. Anch'io offro due esempi che appunto mettono in corto circuito, da una parte Works di Trevisan con L'ubicazione del bene di Falco. Sono pagine paradigmatiche perché propongono modelli contrapposti, quello solidale e quello competitivo. Nel capitolo Il mondo dall'alto, nel quale Trevisan parla della sua esperienza come lattoniere, l'autore enuclea le ragioni per le quali ha amato quel lavoro, sono molte e non le enucleo, ma quello che spicca in questo capitolo felice e doloroso, dove c'è spazio anche per le morti bianche, è il senso di accettazione reciproca e di solidarietà che Trevisan, sempre che si è sempre sentito un diverso, percepisce con i suoi compagni di lavoro. I compagni che non esitano anche a mettergli la loro vita tra le mani quando devono sporgersi nel vuoto per fare un lavoro senza protezione. E lui pensa: strana sensazione avere tra le mani la vita di qualcuno. I passi che si possono riportare in classe da questo capitolo sono preziosi e parlano di corpi. Abbiamo sentito prima quanto il lavoro sia prima di tutto corpo, sono corpi sospesi sotto sforzo, sono affaticati, sudati, affamati. Parlano poi della percezione di un senso di eguaglianza tra compagni e del fatto che il lavoro è un atto collettivo che si esercita in luoghi e spazi che si condividono, dall'officina al cantiere, dalle trattorie a prezzo fisso all'abitacolo del furgone. E nell'epoca dell'atomizzazione dello smart working questo non è un passaggio banale. Viceversa, il mondo individualistico e agonistico generato dalla logica della gerarchia aziendale è al centro di un breve racconto di Falco, Oscar. Oscar è il nome di un pesce combattente, che diventa protagonista di una serata tra colleghi che concludono la settimana lavorativa nella villetta affittata dall'azienda per uno di loro. Stefanato, appunto questo collega, è il team leader di turno e, ingoiando pizzette, i colleghi non solo si confrontano su come è andata la settimana lavorativa, ma anche devono ridefinire i giochi di forza e di supremazia sul luogo di lavoro per i 7 giorni successivi, e lo fanno attraverso una gara di pesci combattenti nel meraviglioso, spazioso acquario tropicale di Stefanato. I pesci combattenti, scrive Falco, i combattimenti possono durare anche ore. Noi ci diamo 30 minuti al massimo, ognuno di noi scommette sulla vittoria del proprio pesce. Non puntiamo soldi, con i combattimenti dei nostri pesci acquisiamo chiarezza nei rapporti lavorativi. Allora, proporre in lettura i testi di Trevisan e di Falco può rivitalizzare il senso della letteratura agli occhi degli studenti e delle studentesse. Li provoca perché riconoscono come verosimili entrambe le situazioni. In quella di Trevisan l'affidamento del proprio corpo nelle mani di un compagno di lavoro ripropone un embrione di solidarietà di classe anche nel più dopato nord-est, dove si vive per lavorare. Al contrario, nella pagina di Falco, studenti e studentesse fanno esperienza di quella logica individualistica e competitiva che sentono proposta dalla scuola stessa, indifferente al conflitto interpersonale che genera, un conflitto tra pari che elide alla radice ogni forma possibile di solidarietà. Allora, dello slogan del festival di quest'anno, il pronome noi è quello che dobbiamo riportare nelle coscienze di questi ragazzi con la forza della letteratura e rappresenta veramente una chiara e oppositiva risposta. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, sono anch'io molto felice e onorata di essere qui, malgrado qualche perplessità iniziale sulla mia opportunità in questo contesto. Quando Alberto Prunetti, il direttore del festival, mi ha proposto di intervenire in questo panel, mi sono molto interrogata per questioni di legittimità e anche di postura, perché in quanto traduttrice, non sono una critica letteraria, in quanto traduttrice subisco molto i principi di validazione della critica letteraria e le forme di invisibilizzazione costanti da parte della critica letteraria. E quindi mi dicevo, ma cosa posso dire? Grazie. Cosa posso apportare io a questo discorso? Dopo una riflessione attenta mi sono detta che forse invece aveva avuto ragione Alberto di invitarmi, e già invitare chi fa traduzione, chi traduce, è un atto di a parlare di critica letteraria è un atto profondamente di insubordinazione. E riflettendo sulla postura che avrei potuto, e anche esitavo anche per una postura femminista, il femminismo mi ha insegnato a non gettarmi sulle occasioni, a riflettere sull'opportunità, su chi è più titolato per farlo, a citare, a cedere il posto. E nel momento in cui ho deciso di accettare, ho deciso di farlo proprio in quanto traduttrice e di riflettere su cosa avrei potuto apportare in termini di rimosso dalla critica letteraria, di quando si parla di libri. Il mio punto di vista, appunto, situato è quello di persona che traduce per case editrici francesi, che traduce dal francese all'italiano e che vive da 17 anni in Francia e che è iscritta a un sindacato italiano di traduttori che si chiama Strade, grazie al quale ho potuto resistere nel mondo editoriale, perché altrimenti ne sarei stata espulsa, schiacciata, anzi mi sarei autoeliminata, perché questo è quello che succede: ci si autoelimina pensando di non essere abbastanza bravi, di non essere stati abbastanza forti, resistenti. E un'altra cosa, un altro punto di critica che mi sentivo di poter dare è quello della sociologia di Pierre Bourdieu, sia perché l'ho incontrata nella mia formazione, sia perché la incontro costantemente nei testi che traduco e che vedo quando passano da una lingua all'altra. Io traduco un sociologo e filosofo che si chiama Didier Ribon, che ha avuto un'amicizia molto profonda con Pierre Bourdieu, traduco uno scrittore che si chiama Édouard Louis, in cui è fondamentale i riferimenti tra i tanti a Pierre Bourdieu, e mi rendo conto quanto i testi tradotti in italiano arrivino poi monchi in termini di critica, in termini di comprensione, perché purtroppo c'è in Italia un rimosso della sua sociologia. Non tutti i testi sono ancora tradotti, testi importantissimi che sono tradotti sono introvabili, non sono più sul mercato editoriale. La stessa Annie Arnaud, che tutti conosciamo e apprezziamo, se dovessi dire quali sono i due pilastri che reggono la sua opera, direi senz'altro Simone de Beauvoir e Pierre Bourdieu. Mentre per Simone de Beauvoir la referenza si possono trovare, c'è sempre appunto una parte mancante, e ci si rende conto quanto appunto la comprensione arrivi un pochino falsata. La prima cosa che mi sento di dire appunto è che quando parlo di campo editoriale, usando il linguaggio di Père Bourdieu, non parlo di un campo, di una metafora calcistica, ma è un campo di forza, un campo di forza magnetica, un campo sociale in cui agiscono delle forze che provocano un effetto. Siamo abituati a parlare di libri come se fossero un mondo incantato, come se lo scrittore fosse un campo neutro, tutti gli scrittori hanno le stesse opportunità e le scrittrici, quando invece è un campo profondamente di dominazione, dove appunto agiscono delle lotte di forze, dove non tutti gli artisti e tutte le scrittrici sono liberi nei loro atti creativi, ma sono profondamente condizionati dal mondo sociale da cui provengono. Mi limito a citare nell'introduzione delle regole dell'arte di Pierre Bourdieu. Tradotto in italiano Allora, dirò dopo i traduttori, ecco, volevo predicare bene il razzo male, tra le tante cose. L'ho scritto in un altro foglio, dopo lo dirò, giuro. La traduzione, ecco, è di Anna Boschetti e Emanuele Bottaro, che sto per citare. Dall'introduzione alle regole dell'arte di Pierre Bourdieu. La rinuncia all'angelismo puro per la forma pura è il prezzo che occorre pagare per comprendere la logica di quegli universi sociali che, grazie all'alchimia sociale delle loro logiche storiche di funzionamento, riescono a estrarre dai conflitti spesso feroci delle passioni e degli interessi particolari l'essenza sublimata dell'universale, per offrire dunque una visione più vera e, in definitiva, più rassicurante, in quanto meno sovrumata delle conquiste più alte dell'attività umana. Devo dire che tutta questa premessa sul campo, sul posizionamento, è anche importante per dire un'altra cosa. Quando ci si posiziona non per dire io, ma anche per dire quale punto di vista non è preso in conto. E in questo contesto mi sembra fondamentale che, proprio perché lo amiamo, interrogarci in maniera critica. E sicuramente mi devo dire che quando parliamo di critica letteraria, quando parliamo di letteratura e soprattutto di letteratura del lavoro, per quanto possiamo essere intersezionali, c'è sempre un impensato nei nostri discorsi, che è quello del possesso dei documenti. Questo dispositivo che decide dalla nascita chi ha diritto di vivere in determinati paesi, chi ha diritto di circolare, quando invece nei nostri paesi c'è tutta una fetta di racconto del lavoro che non ci arriva e che è il lavoro proprio più ricattabile e ricattato proprio per l'assenza di documenti, la cui assenza è prolungata proprio per mantenere ancora più a lungo la ricattabilità di questo lavoro, che non arriva al racconto anche per questioni di lingua e di espressione linguistica. Ed è qui che volevo arrivare. Una delle eredi secondo me più luminose di Pierre Bourdieu, che mi ha permesso anche di pensare il ruolo della lingua nel campo letterario, è Pascal Casanova. Pascal Casanova, oltre ad essere una critica letteraria erede di Pierre Bourdieu, era anche una critica letteraria che aveva una rubrica su France Culture, e non a caso quando invitava delle persone metteva sempre qualcuno vicino con un grande capitale simbolico, accanto a qualcuno che non avesse del capitale simbolico, proprio per fare in modo che potessero i capitali circolare. Il suo libro, l'unico libro tradotto in italiano, è La Repubblica Mondiale delle Lettere, che è arrivato con un estremo ritardo, il libro del 1999, è stato tradotto nel 2023 per Nottetempo da Cecilia Benaglia, e è appunto un libro in cui descrive il campo letteratura mondiale non come questo mondo incantato in cui tutte le opere stanno sullo stesso piano, ma in un universo feroce di rapporti di forza in cui c'è un meridiano che decide quali libri sono più legittimi di altri. Vorrei ritornare a un altro libro, La Langue Mondiale, l'ho uscito in francese perché non è tradotto, che è il 2015, che è forse il libro che meglio è funzionale a questo discorso, perché decostruisce una serie di opinioni comuni. Il primo è che un libro di successo corrisponda a un autore di talento, più che parlare di talento si parla di prestigio. Il prestigio dal latino è proprio dedicato al ruolo di prestigio, all'arte del prestigio, all'illusione, all'incanto che si esercita e che deriva anche dalla posizione sociale, dal capitale di contatti che si possiede nel momento in cui si inizia a scrivere, ragion per cui è molto importante citare sempre un libro e anche la casa editrice che lo pubblica, ma questo ci verrò più tardi. E poi il pluralismo linguistico. Un altro idea comune che decostruisce è che più lingue si parlino, che il pluralismo sia una forma di apertura e che più lingue si parlino più si è aperte, che la traduzione sia una forma di accoglienza, di ospitalità, mentre invece sappiamo molto bene che le lingue non sono universi socialmente indipendenti gli uni dagli altri, che se tutte le lingue dal punto di vista lessicale sono uguali, non lo sono dal punto di vista sociale, non lo sono ancora di più all'interno del mercato editoriale. Sappiamo benissimo che ci sono delle lingue che valgono più delle altre. Le lingue dominanti dopo il latino sono l'inglese e il francese. Questo fa sì che autori che scrivono direttamente in inglese ed autori che scrivono direttamente in francese abbiano più valore sul mercato delle lingue. Questo significa che gli autori che scrivono in inglese e che gli autori che scrivono in francese, nel momento in cui sono tradotti, subiscono una svalutazione, e le case editrici in lotta tra loro per non perdere questa svalutazione, in un certo senso sono costrette a invisibilizzare al traduttore, a vendere l'illusione che si stia leggendo quell'autore o quell'attrice nella lingua originale, che si stia leggendo Joseph Pontius e non la traduzione e l'interpretazione di quello stile meraviglioso fatto da Elena Zagaglia, per fare un esempio. Al contrario, per autori di lingue minoritarie, accedere alla traduzione in inglese o in francese diventa un gioco di riscatto, un gioco di potere imprescindibile. Gli esempi che fa Pascal Casanova sono per esempio quello di Kundera, che è diventato il meraviglioso scrittore che tutti conosciamo dopo la sua autotraduzione in francese, o Rushdie, o tutti quegli autori minoritari che scrivono non nella loro lingua ma nella lingua del paese che è la lingua ufficiale. Un altro segno tipico della dominazione linguistica è la diglossia, ci riguarda in modo particolare in quanto italiani. Questo parlare diversi dialetti, il subire una lingua privata, una lingua dominata, una lingua dominante e averle all'interno delle stesse regioni. Quindi ecco, per dare un'idea di quanto il pluralismo non sia possa essere in campo editoriale un segno di dominazione, basta pensare che chi è nato a Londra potrà imparare lo Yoruba per piacere, ma non avrà bisogno di imparare nessuna lingua, perché in qualsiasi posto del mondo andrà, sarà accolto nella sua lingua materna come un padrone. Questo ha delle forti implicazioni, perché quando parliamo di campo editoriale, ci ricorda Pascal Casanova, siamo effettivamente in un campo di battaglia. Siamo in un campo di battaglia in Italia in cui le lotte si giocano anche con i testi tradotti dall'inglese e dal francese per avere capitale rispetto a altre case editrici. Non siamo in un campo neutro, soprattutto perché le case editrici hanno posizionamenti politici, e quindi è sempre molto importante andare a vedere come un libro è uscito nella sua lingua, da chi è stato pubblicato quell'autore, chi l'ha preso in italiano, che tipo di operazione ha fatto, chi l'ha tradotto, come è stata fatta quella traduzione, quale casa editrice lo pubblica, con quale titolo. Una critica letteraria che vuole dirsi radicale, che vuole dirsi militante, non può prescindere da questo tipo di ragionamento. Mentre invece è sotto gli occhi di tutti che anche le trasmissioni più belle, che anch'io seguo dal punto di vista letterario, invisibilizzano continuamente, in nome di chi traduce, il ruolo di chi traduce, il fatto che alcuni libri siano tradotti e che non sono tutti nati in italiano e sorti come funghi dalle mani del lettore, ma c'è stato un lavoro editoriale. E anche vedere le temporalità con cui alcuni libri vengono tradotti. Farò un esempio che è assolutamente inventato, ma che non è inverosimile, che potrebbe capitare, una realtà, diciamo, ragioniamo per metafora. L'anno scorso parlavo di un testo di Edouard Louis che ho avuto l'onore di tradurre, che è Chi ha ucciso mio padre. In questo libro l'autore fa il nome e il cognome di tutti i responsabili politici che hanno distrutto le spalle del padre. Comincia dall'analisi del corpo del padre, rintraccia in essi con i responsabili politici e tutte le leggi che hanno fatto. E tra queste viene nominato Martin Hirsch, e sotto il governo Sarkozy, quando fece questa legge che obbligava chi aveva un sussidio di disoccupazione ad accettare, a non poter rifiutare più appena andare a lavorare dopo la seconda proposta. Questo successe al padre, che con la schiena spezzata in un incidente di lavoro in fabbrica gli veniva offerto lavoro di spazzino e stare 8 ore al giorno piegato. Dovette ritornare a fare lo spazzino pena il perdere il sussidio sociale. Martin Hirsch pubblicò dopo un anno, quindi anche qui a vedere il ruolo della letteratura, l'importanza della letteratura, quando un autore che ha molti lettori, che viene tradotto in molti in molte lingue, che fa i nomi e i cognomi dei politici, poi ci sono delle reazioni anche politiche. Martin Hirsch ha scritto un libro in cui diceva che lui non aveva ucciso nessuno, in cui contrastava anche lui che Edouard Louis non aveva il monopolio di Bourdieu. Ecco, immaginiamo una casa editrice straniera che sia di destra e che abbia tutto l'interesse a togliere dalla circolazione quel discorso di un autore così importante, che sa che quell'autore sarà comprato nella sua lingua. Che cosa può fare per depotenziare quel libro? Lo può acquistare, lo può tenere lì, lo può far uscire con un titolo diverso, lo può far uscire addirittura dopo il libro di risposta di Martin Hirsch e dargli una visibilità minore. Questi sono dei piccoli esempi, però per ricordare, sottolineare quanto quando parliamo di libri non siamo in un campo neutro, ma siamo all'interno di politiche editoriali virtuose e meno virtuose. È importante tenerle presenti per una critica che si voglia radicale. Un'altra cosa che mi sento di dire, che vedo, sono perfettamente d'accordo sull'assenza di una critica radicale, militante, e soprattutto una critica che prenda in modo serio la letteratura. La letteratura è uno spazio di enunciazione fondamentale, molto più della saggistica, perché nella saggistica siamo obbligati a dire la verità, a documentare tutto quello che si fa con delle note. Nella letteratura si creano mondi. Ieri Wuming 4 diceva la figura, mi ha molto colpito, del poliziotto buono di sinistra, che nella realtà nessuno lo incontra, però questi spazi immaginativi vengono creati e hanno degli effetti, hanno delle funzioni in termini di circolazione del discorso, di performatività di certi immaginari e anche preparazione a certi discorsi politici che poi si tradurranno in espressione di voto. E non è un caso che in Francia la critica letteraria sia affare dei filosofi. I filosofi, i sociologi si interessano molto di quello che succede alla letteratura, analizzano i discorsi all'interno del campo letterario. E un'altra cosa, che scrivono introduzioni ai libri. L'esempio più luminoso che mi viene in mente è la storia, non so se c'è il tempo. Ne avevo accennato l'anno scorso, ma ci tengo a riprenderlo perché meriterebbe un discorso a sé. È la storia editoriale del testo di Françoise Hégat, Lettera a una nera. Questo testo di questa donna che scrive questo libro, che è un diario di resistenza sulla sua esperienza, la sua inchiesta nelle case marsigliesi come donna, come domestica, per testimoniare del razzismo delle donne bianche e delle famiglie per cui lavorava. È stato pubblicato postumo negli anni 70 dalla casa editrice L'Harmattan. Era l'unica casa editrice che un po' si interessava alle voci non franco-francesi, che gli va riconosciuto il fatto che gli diede spazio. Quando io mi sono ritrovata a tradurre qualche anno fa questo libro per la casa editrice Fandango, sotto mia proposta, era già uscito per la casa editrice Lux, che ha fatto un lavoro meraviglioso facendolo uscire con una prefazione di Elsa Dorlan. Io non lo dirò mai abbastanza, non avrei mai capito quel libro, non l'avrei mai apprezzato se non ci fosse stata la traduzione di Elsa Dorlan, perché probabilmente la mia postura femminista che prende le distanze da un certo tipo di cattolicesimo, l'avrei visto come ci sarebbero stati degli aspetti di quel testo che non me ne avrebbe fatta capire la luminosità. Quell'introduzione è ormai per me imprescindibile da quel libro, e testimonia il lavoro virtuoso, come dicevo prima, della casa editrice Lux. Traducendo il testo, ho approfittato del fatto che il comitato Mamega, fondato da Françoise Hégat, era proprio a Marsiglia, la città in cui vivo. Ho preso contatto con la famiglia, che mi ha permesso di accedere al manoscritto e di vedere quanto effettivamente il lavoro della prima casa editrice era stato un lavoro di normalizzazione fino a un sottotitolo molto esotizzante. Sotto quel libro, Lettera a una nera, c'era Racconto antillano, che non era una volontà di Françoise Hégat. Françoise Hégat era francese, Françoise Hégat stava testimoniando della Francia, e anche grazie a quella classificazione quel libro è stato fuori dai circuiti femministi, allora che è un libro fondamentale oggi per il femminismo, e è stato grazie appunto a questo lavoro di ricerca, questo contatto con la famiglia, se oggi la traduzione italiana non ha quel sottotitolo molto limitante. Grazie. Grazie anche a Annalisa, ci ha dimostrato nel vivo del lavoro editoriale come ci sia appunto l'invisibilità, la sommersione e anche quanto la mediazione sia occultata, no? Perché dato che i nostri padroni considerano anche la cultura una merce, e lo è, come ha dimostrato anche Mimmo, la merce si dovrebbe piazzare sul mercato autonomamente, quindi la mediazione non si deve vedere, deve stare invisibile, e quindi la verifica dei poteri che hai appena evidenziato è molto importante per questo discorso e anche per le mancanze della critica letteraria. Adesso sarebbe molto bello se qualcuno o qualcuna di voi avesse qualcosa da chiedere, da intervenire, perché abbiamo ancora 10 minuti prima appunto dell'elefante nella stanza, che è l'elefante della brevissimo intervento dei precari dell'università, però appunto dialogare col pubblico dovrebbe essere una cosa che arricchisce, no? Un incontro così, anche se è un po' difficile, vi chiederei di intervenire con domande o con osservazioni. I temi sono stati moltissimi, prego, venga. Non si sente. Grazie. Annalisa Romani, io l'avevo già seguita l'anno scorso con grande interesse, quindi quest'anno nuovamente. Il libro di Edouard Louis, Chi ha ucciso mio padre, ho visto che era di Bompiani, però al momento non si trova. Ma siccome sta ristampando Nave di Teseo, cioè deve uscire un'edizione nuova per altro editore, se è al corrente come traduttrice. Allora sì, i testi di Edouard Louis stanno riuscendo, non so questo in precisione, però stanno riuscendo per La nave di Teseo. È riuscito da poco l'anno scorso anche il primo, Farla finita con Eddie Belgueule, per La nave di Teseo, e piano piano riusciranno anche gli altri. Grazie. Ci sono altre domande, interventi? I temi sul tappeto sono stati moltissimi. Nel canone Working Class, dove mettereste la dismissione? Allora, la dismissione è uno dei testi che io uso nella mia microantologia, cioè direi che è il capostipite di quell'antologia, dal punto di vista anche cronologico. Certo, è un testo nel quale è un testo ibrido, nel quale ci sono elementi finzionali ed elementi non finzionali. Chi dice io là dentro è un operaio, è Vincenzo Bonocore, che appunto è incaricato, no, dello smontaggio della colata continua. Chiaramente però quella voce operaia è una voce che rielabora rimette insieme in questa narrazione, nella quale appunto forse anzi senz'altro non è tutto veridico, no? Ci sono dei personaggi che appunto diventano veri e propri personaggi finzionali, penso all'inglese per esempio, no? Al padre di Marcella. Quindi È un libro che è un po' working class e un po' no, anche in questo caso io non credo che si possa parlare secondo la categoria, diciamo, di Brunetti di un libro veramente working class, perché l'autore è un giornalista e quindi è un uomo che non è non scrive dal basso, traspone quello che Vincenzo Buonocore gli racconta e insieme inserisce, cuce insieme anche, non so, il reportage, diciamo, le informazioni degli operai che vanno dallo psicologo. Quindi credo che non sia un vero e proprio libro working class, però a mio avviso nella rappresentazione letteraria del lavoro contemporaneo è imprescindibile come punto di partenza. Cioè, se dovessi fare una mia antologia scolastica ben pagata, lo inserirei, voglio dire, ecco, non rinuncerei a quel libro, ha delle pagine che sono assolutamente importanti sulla rappresentazione del lavoro operaio e delle lotte che gli operai hanno portato avanti. Forza, altre domande? Incrociare le voci è sempre molto importante, è un elemento politico, uscire dall'io e diventare noi. Nessuna domanda? Sì, visto, si esce dall'io e si diventa noi. E allora una riflessione su tutti i vostri interventi interessantissimi. Vorrei chiedervi, data l'importanza della critica letteraria che assume nel presente sempre più, come costruire, come pensate o pensiamo, di costruire uno spazio concreto, usufruibile dai più, per arrivare ad una critica letteraria dei testi esistenti e anche di quelli nella storia della letteratura, perché il discorso è come fruire anche di una critica letteraria altra, cioè creare le condizioni concrete per far arrivare delle riflessioni e delle interpretazioni altre, alternative, corrette dal nostro punto di vista, immagino, a tutti, o comunque alla maggior parte delle persone. Perché questo spazio, forse è mia ignoranza, io attualmente non lo vedo. Quindi forse, voglio dire, un primo passo è costruirlo. Fare sì che questa critica letteraria non rimanga dentro quello o quell'altro ambito, magari per soli tecnici, ma come fare in modo che questa critica fluisca e sia a disposizione, appannaggio della maggior parte delle persone. Provo a rispondere io, perché la domanda appunto l'ho sentita nel cuore. Allora, critica letteraria è una parola molto sputtanata, no? Cioè, un critico, si fa avanti questo critico e ci vuole dire il significato del testo. Tanto lo posso fare da solo, no? Perché ho bisogno dell'esperto? Quindi è una parola nel senso comune inutile, e elitaria e degradata. La critica esiste se c'è uno spazio pubblico. Finora gli spazi pubblici della modernità sono stati la scuola, l'università, l'editoria e il giornalismo. Tutti e quattro questi spazi pubblici sono erosi e colonizzati dallo spirito del capitale, dallo spirito animale del capitale, che ha appunto sostituito gli alfabeti, ha creato nuove parole chiave anche per gli insegnanti, anche per i docenti universitari, che devono pagare a parlare di innovazione, di eccellenza, di merito. Non devono parlare di problematicità, di pluralità delle interpretazioni e degli sguardi. È un moto fortemente antidemocratico del pensiero unico, ormai attivo da 30 anni di neoliberismo, che sega le gambe a una possibilità dialogica della critica negli spazi pubblici in cui aveva ancora senso. La scuola e l'università sono spazi residuali, riserve indiane. Diceva prima Mimmo, ci guardano noi critici neomarxisti come dei relitti, degli impacci. Quindi sostanzialmente anche lì ci si sente riserva indiana. Io penso che se dovesse risorgere una critica dal basso, oltre che resistere nella scuola, non so se potrà resistere nell'università, perché l'università è ancora più feroce della scuola nell'eliminare e ridurre a merce i prodotti della nostra ricerca. Li chiamano così, i prodotti della nostra ricerca, mercificati, quantizzati, algoritmizzati. E questo esclude la problematicità, il pensiero, la profondità, la critica, il pensiero critico, lo esclude proprio, lo mercifica e lo esclude. La scuola ancora resisterà un pochino. Io credo che l'esperienza mutualistica che il mondo del lavoro ha esercitato, questo luogo, il mutualismo, lì dentro, per piccoli gruppi, negli spazi disseminati, si possa esercitare una critica militante diffusa che forse risorgerà un giorno. Non sarà un Moloch, il grande giornale, la terza pagina, il grande professorone universitario. Saranno circoli militanti che si approprieranno della cultura, dal basso, come sta facendo il mutualismo in questa esperienza GKN che dobbiamo avere nel cuore. Io volevo aggiungere una cosa. Volevo ringraziare per la domanda, a cui non ho risposta, se non che lo stiamo facendo qui, che l'ha fatto il signore che ha posto la domanda e che veramente è tanto, di prendere sempre più parola nelle presentazioni dei libri, perché per me diventano dei luoghi insopportabili in cui a volte c'è la postura di chi vuole svegliarci, spiegarci le cose, oppure dei luoghi in cui ci si vuole vendere qualcosa, e quindi ecco, farli diventare e trasformarli in spazio critico. E questo mi sembra un'altra modalità, perché mi ci sono interrogata molto, ma volevo partire dallo stesso constatazione e condividere un'altra risposta che mi sono data, è che molta dell'assenza della critica letteraria in Italia, secondo me, è dovuta anche alle nostre condizioni precarie di lavoro. A volte leggo delle critiche e non vedo delle critiche, e capisco perché non le si fanno, perché è molto pericoloso, e vediamo chi lo fa cosa rischia quando dice la verità, e questo è anche ci dà la misura di quanto è importante la critica militante e di quanto è importante ricostituire insieme dalle condizioni materiali le condizioni affinché ci sia. Sentiamo l'ultima domanda. Prego. Dopo le domande, la riflessione, io volevo fare solo un ringraziamento, perché avete portato Balzac in questo panel, che è un punto di vista aristocratico, monarchico, e come lui quasi nessuno credo sia riuscito a mettere in evidenza la violenza culturale del capitalismo borghese in arrivo. Quindi grazie. Grazie a tutte e a tutti. Invito qui sul palco i compagni del precariato universitario. C'è un altro intervento. Scusami, non ti avevo visto. Perdonami. Non si sente. Voglio ringraziare per gli interventi e fare una domanda che parte dal mio punto di vista di universitario. E in particolare quello che vorrei chiedere, abbiamo parlato sia di passato che di futuro, abbiamo parlato attraverso le parole del professor Cangiano di un punto di vista che non è solamente punto di vista ma che è alternativa nel futuro, ma abbiamo anche parlato di letteratura che permette di costruire un'alternativa a un individualismo che è sempre più dilagante, e all'interno di un percorso che è un percorso di lotta e di liberazione. Come riuscire a tenere all'interno di un presente opprimente un passato? Quindi una domanda polemica, e il grande dubbio penso di chi continua a vivere gli spazi come quelli dell'università, sia da studente che da professore che da ricercatore, e l'assemblea precaria si pone questa domanda, come tenere insieme passato e futuro all'interno di questo presente? Questo. Non merita una risposta, merita una prassi una domanda del genere, cioè merita tutta un'azione di lavoro per far inverare la tua domanda, e ovviamente sono compiti giganteschi che spaventano. Riprendendo un po' quello che diceva Marco prima, quel lavoro di persuasione permanente dell'intellettuale, che è il compito dell'intellettuale secondo Gramsci, secondo me è basilare. Poi ovviamente non abbiamo nessuna certezza di dove stiamo andando, la nostra è una scommessa organizzativa, una scommessa per modificare i rapporti di forza, è una scommessa anche di lotta sul passato, cioè tu lo sai bene, Benjamin diceva, se vinceranno gli altri neanche i morti saranno al sicuro. Ecco, noi stiamo là anche a difendere il passato, nel senso a difendere quella linea alternativa del passato, quella storia non raccontata del passato che è la nostra, le generazioni senza nome di cui cantava Guccini. E quindi io credo che ci sia un forte collegamento fra questo, e credo che il passato anche come alternativa al presente, quindi un'alternativa che non è solo insegnare ai ragazzi che la presentificazione è sempre terrificante, che l'appiattimento sul presente porta a una visione di un mondo senza alternative, e il passato come il futuro mostra alternative, però non lo so, forse. Grazie a tutte e a tutti. Lasciamo il palco ai compagni del precariato universitario. Chi è quella? Ciao, è molto bello essere qui oggi tra gli elefanti nelle stanze di questo terzo festival della letteratura working class. Noi vi siamo molto grate per lo spazio che avete deciso di condividere con noi. È bello pensare che a margine di un panel tutto universitario, quasi tutto universitario, dedicato alla critica letteraria militante e tenuto principalmente in piedi da docenti strutturati, sia stato scelto di fare spazio, dunque in qualche modo anche di dare un briciolo di potere, anche a un'assemblea precaria e a un testo collettivo, scritto da tante mani e tanti teste. Siamo un gruppo di ricercatrici e ricercatori, assegniste di ricerca, dottorande, dottorandi, studenti. Lavoriamo in università come precarie e stiamo provando a Firenze, ma anche a Pisa, a Siena, in tante altre città d'Italia, a rompere i vincoli della solitudine e dell'iperproduttività imposti dal nostro lavoro, per costituirci assemblea, per ritagliarci spazi, per chiederci come stiamo, per politicizzarci sempre di più e sempre meglio, anche alla faccia di chi, nell'università in cui siamo cresciuti, ha provato a insegnarci che politicizzarsi fosse un verbo sbagliato. Le assemblee precarie sono nate a partire da un fattore contingente, l'ennesimo taglio ai finanziamenti all'università, la proposta di una riforma del sistema universitario, la riforma Bernini, che vorrebbe imporre forme di lavoro sempre più precarie e senza tutele. Più in generale, però, le assemblee precarie esistono perché continuiamo a credere che sia possibile costruire insieme, collettivamente, un'università radicalmente diversa, interamente e solamente pubblica, costruita a partire dal diritto allo studio, accessibile, non asservita alle logiche di mercato, attenta al proprio territorio, socialmente integrata, come ci insegna, tra le tante cose, il collettivo di fabbrica dell'ex GKN. Abbiamo poco tempo oggi, ma crediamo che qualsiasi ragionamento sull'università, perché abbia senso di esistere, non debba mai essere un ragionamento sulla sola università, ma che debba prima di tutto guardare fuori. Oggi, 5 aprile, nei cortili di questa fabbrica, sotto i tendoni di questo festival, guardare fuori significa anche pensare a chi stampa i nostri libri, a chi li spedisce, a chi lavora nelle nostre mense, a chi pulisce gli spazi che abitiamo, a chi porta i nostri pacchi, chi installa i nostri programmi. Ci hanno insegnato che la ricerca scientifica è neutrale, noi ci chiediamo se siano neutrali i rapporti, i modi di produzione, le scelte economiche, lo sfruttamento, il vassallaggio. Non siamo in un campo neutrale, come è stato detto poco fa. i temi su cui fare ricerca, i progetti finanziati, le carriere premiate, le voci ascoltate, ancora una volta gli spazi concessi, sono il risultato di dinamiche di potere tutt'altro che neutrali. Il nostro stesso posizionamento all'interno o ai margini di questa istituzione influenza inevitabilmente il nostro sguardo e le nostre priorità di ricerca. In questo contesto, anche oggi è cruciale tornare sul tema dei finanziamenti esterni e su come questi indirizzino la ricerca verso aree specifiche, dettate dalle logiche di mercato o dalle priorità politiche, senza alcuna attenzione a questioni socialmente rilevanti e però meno redditizie, che dunque rischiano di essere del tutto marginalizzate o ignorate. E poi inevitabilmente bisogna anche parlare delle condizioni materiali in cui lavoriamo: la precarietà, la competizione sfrenata, il sistema delle pubblicazioni, i meccanismi dell'editoria su cui l'università poggia, sono tutti altri elefanti nella stanza che non possiamo ignorare quando pensiamo all'università che vorremmo. È di altri modi, di altre logiche, di altri strumenti che abbiamo bisogno. E forse siamo utopisti, ma se la nostra università e le nostre scuole educassero all'utopia, staremmo meglio, penseremmo meglio, scriveremmo meglio. Forme di finanziamento alternativo, reti di ricerca indipendente, uscire dai circuiti accademici tradizionali, ma soprattutto ripensare il nostro tempo, dedicarlo a risorse e a progetti che abbiano un impatto diretto sulle comunità e sui territori, sui movimenti sociali, politicizzare non solo il nostro tempo libero, ma anche il nostro tempo di lavoro, chiederci quale ne sia lo scopo, scegliere consapevolmente i temi e i metodi, ma anche, quando e se mai avremo la possibilità di insegnare, immaginare una didattica radicalmente diversa da quella che abbiamo ricevuto noi. Allo stesso tempo, riconosciamo che l'Accademia non è un blocco monolitico. Al suo interno esistono spazi di resistenza, voci critiche, tentativi di produrre sapere alternativo. È con queste realtà che vorremmo dialogare, costruire ponti, per esempio a chi ha parlato oggi su questo palco, e a loro che chiediamo di continuare a interrogarci su cosa voglia dire oggi la militanza in università, sulle difficoltà di rimanere fedeli ai propri ideali all'interno di un ambiente accademico conformista e competitivo, sulle contraddizioni con cui ci scontriamo ogni giorno. Cosa rimane dell'impegno se lo confiniamo a parentesi, a un'ora ritagliata a margine di una giornata passata a rincorrere l'ennesimo bando? Cosa rimane dell'impegno se non è altro che l'ennesimo elefante in una stanza satura? Dovremmo continuare a farci largo, farci spazio insieme, a tenerci strette, a occupare qualsiasi angolo con narrazioni alternative e pratiche diverse, fino a invertire i rapporti di forza esistenti e far sì che non sia solo giusto e doveroso, ma normale, tenere lezioni che non avranno paura di confrontarsi con ciò che succede fuori dalle università. Grazie per questo spazio. Durante la pausa volevo intanto ricordarvi che il Festival di Letteratura Working Class, per questo festival collaborano due fantastiche radio che sono Radio Wombat e Radio Sherwood. In particolare su radiowombat.net potete trovare i podcast di tutti i panel del festival, praticamente in diretta, cioè, nel senso registrati e messi sul sito. Quindi radiowombat.net e trovate tutti gli interventi del festival. Poi vi ricordo anche che con Radio Sherwood, appunto in collaborazione col Festival di Letteratura Working Class, abbiamo creato un podcast che trovate sia ovviamente soprattutto su sherwood.it e su Spotify, che è Music for the Working Class. Adesso ve lo metto, quindi ve lo ascoltate. Buon pranzo, ci vediamo alle 15 puntualissimi. Iniziamo con scrivere servendo tra i tavoli. A dopo.